Ecco, cari amici di Web Radio Luzzi, sono partito un attimo in anticipo, perdonatemi. Allora, questa puntata 1.3 di Web Radio Luzzi finisce così, con le capate. Ecco, partono i primi insulti. Io non voglio censurare nessuno. Vogliamo. Scusami, Laura. Più che Amanda Knox, la puoi prendere con il giudice. Non è Amanda Knox. La moglie del giudice che ha giudicato Amanda Knox è una toccola. È scontato. Ma scusatemi una cosa, no? Di Cusacco, Vanzetti, Chirocane. In America erano operai, erano italiani condannati, morti, via, non ne frega sull'americano. Capendo l'americano. Non hanno pure mannate, non hanno pure come subito in Italia. Ma l'americano mi stacco di pelle in una scarpa. Sì, però non ci allunghiamo, non ci dilunghiamo. La solletica la sto parlando io. Ovviamente Samantha Fox è una cantante. Tu hai sciolto Satomo. Amanda Knox, Amanda Fox, vabbè. E poi hanno capito, la Fox è una macchina. Mi c'è proprio indifferita. Casi stanno tecando con deodorante, cosa. Insomma. Vabbè, che chi puzza? Sessione, non va locale. Ti ammazzi i palate. Qui c'è in famiglia. In famiglia qua, casa per liquore. Chiudiamo perché con questa pozza io non ci posso stare qua. Ringrazio a tutti a partire da Emilio. Chissà ci mancava, va. Gesù Cristo mi c'ha pure che vabbè Vox è andato. Va bene, io saluto tutti a partire da Emilio lo Scasciasedia. E ciao paga pure i danni. A tutti, A passare. Ciao mamma! A passare a Carletto. Ciao, grazie. Prego. Passare a Francesco. Arrivederci. E ad Andrew. Salve a tutti. E come ultimo io vi saluto e io canto. E lascio la sigla finale. No, scusate, vogliamo Gin. Lascio la sigla finale. Casefice Roberti. Salutiamo Casefice Roberti, e finisco, saluto tutti e il negozio di Carletto che si chiama sotto voce cose blu. Le bolle blu. Ma dopo che dice come le bolle blu, chi non chiama acqua sapone, chi non chiama di una maniera, chi non chiama di una. C'è un bello nome, tanto ranno, no? Sembra un nome cangiato, mi giuro. Salutiamo anche il Borgo Antico e. Cambia pure Pietro nome, io vi saluto. Vi saluto e vi lascio alla canzone, alla sigla finale, alla canzone finale di Mitch di Bagnini. Prego. Vai, Mitch. Ciao, cin. Ciao, bimba dorata. Ciao da cin. Basta, chiudiamo.